Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Da un po' di tempo sta crescendo in me la sensazione che, piuttosto che un improbabile complotto, si stia diffondendo un modus di comportamenti da parte del governo teso a realizzare uno stato di soggezione di una parte della popolazione italiana ed anche immigrata, e che l'azione del ministro Brunetta stia in questo ambito. Detta in soldoni, la mia teoria è: la pubblica amministrazione comprende manager e lavoratori. Con un'azione repressiva sui lavoratori sarà possibile creare o ricreare uno stato di asservimento che, a prescindere dalla valutazione dei manager, che quindi sarebbero fatti salvi delle loro responsabilità, costringerebbe i lavoratori ad un maggior impegno, soprattutto per ovviare a una mancata organizzazione del lavoro, per riportare efficienza nel funzionamento degli uffici. Cioè, se vinciamo la corsa, vince il fantino. Se perdiamo, perde il cavallo. Giuliano. Per me Brunetta ha ragione. Nella misura in cui gli evasori fiscali sono tutti a destra, le partite di calcio sono tutte truccate, a Natale siamo più buoni e i politici sono tutti ladri. C'è un fondo di verità in ognuna di queste affermazioni, ma Brunetta fa parte del governo Berlusconi, non del cast di Buona Domenica. Se c'è ancora una distinzione fra le due cose, forse varrebbe la pena sottolinearla. Altrimenti ormai va bene tutto. Alberto, da Palermo. Dalla mia visuale e per il lavoro che svolgo, penso che Brunetta abbia ragione. Vi posso solo raccontare un caso emblematico che mi è accaduto all'INAIL, dove mi trovavo per lavoro. Nell'ufficio vicino si stava svolgendo una mini riunione, in cui veniva redarguita una giovane impiegata che, rientrata da una maternità e trovando del lavoro arretrato, aveva completato in un mese un numero di pratiche che erano il doppio di quelle previste contrattualmente. Già questo per me era pazzesco. Con mio grande stupore ho scoperto che la persona che infieriva sulla povera impiegata era il direttore di sede. Ironia della sorte, ho visto poi in televisione quel direttore come relatore sindacale di una riunione per rinnovo dei contratti degli statali. Ammetterete che, per un dipendente di un'azienda privata, tutto questo risulta piuttosto strano. Poi come si spiega che, quando c'è un concorso pubblico per qualsiasi posto, c'è la fila, mentre ci sono aziende che adesso non trovano operai? Renato. Provo a spiegare perché così tanta gente, secondo un recente sondaggio, concorda con Brunetta nel collocare i fannulloni a sinistra. Non che sposi l'ipotesi, però non mi stupisce affatto. Il sindacato, agli occhi dei tanti non sindacalizzati, è spesso percepito come centro di mantenimento dello status quo, sacca di resistenza alle istanze moderniste e meritocratiche del paese. La gente non sindacalizzata è stufa dei privilegi dei sindacati e dei suoi protetti, stufa di non vedere mai sanzionati quanti si rendono responsabili di gravi mancanze verso l'azienda che paga loro uno stipendio. Peggio se si tratta di un'azienda pubblica, perché i soldi sono dei contribuenti. La gente è stufa del lassismo complice del sindacato nei confronti dei tanti atti di vera e propria prevaricazione verso i cittadini, come scioperi bianchi o selvaggi nel settore dei trasporti. La sensazione è quindi che il sindacato blandisca chi ha poca voglia di lavorare e chi ha poca voglia di lavorare trovi nelle lotte sindacali una comodissima sponda per vedersi garantito uno stipendio, ancorché modesto, per fare il meno possibile. Siccome il sindacato è percepito da tantissimi come sinonimo di sinistra, malgrado esistano espressioni sindacali centriste, cattoliche e pure di destra, e di fatto, pensando ai sindacati, molti pensano al logo quadrato rosso della CGIL, l'equazione fannullone uguale sinistra mi pare una conseguenza pressoché automatica, per quanto sostanzialmente impossibile da sostenere. Un sindacato moderno, più che sdegnarsi e basta, farebbe comunque bene a chiedersi perché ci sia una tale percezione in giro. Invece è più comodo ad affermazione gratuita ribattere con comode affermazioni trite e ritrite, che temo non facciano guadagnare al sindacato nessuna solidarietà dei lavoratori non sindacalizzati, che invece preferiscono cantarsela e suonarsela da soli. Brunetta, lamentando il colpevole lassismo dei sindacati, dovrebbe, per onestà intellettuale, anche rammentare le posizioni costosamente populiste della cosiddetta destra sociale che, in fatto di mantenimento dello status quo, soprattutto in materia di pubblica amministrazione, non sono certo secondi a CGIL ed autonomi di sinistra. Purtroppo AN è parte integrante di questo governo e un campione della destra sociale siede in Campidoglio. Sembra quindi che Brunetta abbia privilegiato la scappatoia marketing per vendere il suo prodotto all'elettorato. Non ne avrebbe bisogno. Se inchiodassi i sindacati tutti alle loro responsabilità, introducendo criteri meritocratici a tutti i livelli attraverso meccanismi di controllo che partono dalla dirigenza, costringerebbe il sindacato ad uscire dai cespugli. In quest'ottica sarebbe auspicabile un ingaggio fattivo di Pietro Inchino. Peccato che per fare questo dovrebbe anche passare su sentieri che farebbero inalberare i suoi coinquilini che, in fatto di modernizzazione della pubblica amministrazione, sono sostanzialmente uguali alle posizioni più intransigenti di CGIL e autonomi di sinistra. Un'altra occasione persa, temo. Roberto. Pur essendo un elettore del PD, non condivido come si comporta Veltroni riguardo alle politiche sull'immigrazione. Mi duole dover constatare come la Lega sia l'unica ad affrontare con pragmatismo un problema che investe oggi soprattutto il ricco Nord-Est, ma che a breve coinvolgerà massicciamente l'intero paese. È inutile affermare astratti e planetari principi, quando poi tutti noi quotidianamente dobbiamo, nel nostro microcosmo, subire un'immigrazione confusa, anarchica, sciatta, buonista e irrazionale, gestita per interessi di bottega solo dall'Opera Nomadi e dalla Caritas. Il 99,99% degli italiani è favorevole ad una gestione pragmatica dell'immigrazione che, sottolineo, è un fenomeno naturale ed irreversibile. Gianni. Vi sembra giusto che il PM Raffaele Guariniello esalti pubblicamente l'incriminazione, da lui richiesta ed ottenuta, dell'amministratore delegato di ThyssenItalia, dichiarando che si tratta di un evento storico? Io avrei preferito che, essendo un magistrato, si fosse limitato al silenzio oppure, casomai, a parlare di fatto legalmente giusto ed opportuno. Insomma, lui dovrebbe muoversi per fare giustizia e non per passare alla storia. Sarà una sottigliezza, ma è fastidiosa. Giorgio. Tutti i concorsi fatti nell'università italiana sono preorganizzati. Forse mi si potrebbe dire che ci vogliono le prove in termini legali. Ovviamente, le prove su tutti i concorsi fatti in Italia non è possibile averle. Ma il sistema è tale da poter permettere che i professori si promuovano da soli e come tali tutti promuovano tutti. Il favore verrà ricambiato dal membro interno di quella sede, che in questa sede è presente come membro interno. Una cosa vecchia quanto l'età dell'università e mi meraviglio che ancora oggi se ne parli. Ogni scuola di pensiero tende a muoversi in modo da crescere, come conseguenza di una esigenza naturale ed ovvia. I discepoli di una scuola aspirano a crescere dopo aver lavorato a costi per la comunità molto bassi, stipendi non commisurati al lavoro fatto e a tanto altro fatto a proprie spese. Dopo aver lavorato, vorrebbero vincere un concorso per poter essere riconosciuti anche in termini monetari. Un discepolo riceve tanto del sapere di una scuola, viene erudito e cresciuto nel sapere e nel modo di agire scientifico. E questo è visibile nella produzione scientifica che viene realizzata e nella differente formulazione delle coscienze, effettuata anche in ambito didattico. La differenza tra una scuola di economia aziendale di Milano e una scuola di economia aziendale di Napoli non risiede solo in caratteristiche geografiche, ma nella cultura scientifica, che è vera e propria opinione scientifica. La pluralità del pensiero scientifico ha permesso di annoverare i ricercatori italiani tra i migliori nel mondo. Adesso abbiamo un sistema che permette anche brutture. Come tutti i sistemi è perfettibile e come tutti i sistemi reagisce quando viene attaccato. Se in tempi di pace è possibile che il sistema produca ottimi ricercatori per la maggior parte dei concorsi, mentre in minima parte agevola i raccomandati, in tempo di guerra il sistema reagisce e agevola solo i figli di, ed ovviamente tende a tutelare, il proprio potere e la propria autonomia. Invece di creare delle regole che possano gestire il sistema, tenendo conto della necessità di una certa autonomia e della regola secondo la quale il migliore deve essere premiato, il nostro governo ha solo chiuso il rubinetto del denaro. La domanda è, ha così inteso risolvere il problema? Se diminuire i finanziamenti dove ci sono gli sprechi è la panacea di tutti i mali, con modestia posso dire, questo lo so fare anch'io. Il risultato della perdita di autonomia dei concorsi è che i raccomandati si stanno agevolando a più non posso. Esiste in medicina un problema di carattere fisiologico che agevola un infarto nel momento in cui si sta cercando con troppa lena di salvare il malcapitato. Si chiama ischemia riperfusionale e paradossalmente ammazza più cellule e ristabilire subito il flusso di sangue di quanto ne farebbe l'infarto. Se continuiamo con la caccia alle streghe, senza stabilire delle regole che tengano conto del perché si è arrivati a questo, e se non garantiremo un'adeguata autonomia, arriveremo all'appiattimento del sapere scientifico. Esiste del buono nella nostra università, ed è molto importante per la nostra società e deve comunque essere tutelato. Gianluca, Foggia. Il governo farà una manovra da 80 miliardi di euro per ovviare la crisi finanziaria, per sostenere il sistema Italia nel suo complesso, dopo che personaggi molto rampanti, operanti senza ragionevoli controlli, hanno sconquassato il mondo. Ora, non dimenticando il contributo per l'Italia da parte degli italiani onesti, mi viene da pensare che gli italiani che pagano le tasse saranno sicuramente chiamati a concorrere per il risanamento, senza avere nessuna colpa per lo sconquasso creatosi. Mentre scrivo c'è un bel sole fuori e potrei anche pensare all'ottimismo. Se potessi dimenticare che il debito pubblico ci costringe ogni anno a trovare, per pagare gli interessi sul debito, 70 miliardi di euro e che gli evasori in tutta questa bella storia sono esentasse. Io non sono né ottimista né pessimista, sono realista. E spero di non sentire qualcuno che mi venga a dire che ha salvato i conti del mio paese. Perché io sono già stato coinvolto in passato e lo sarò anche in futuro. E con me, tanti italiani onesti. Sergio. Caro Sergio, la ringrazio del suo realismo, anche se non condivido il tono di sostanziale rassegnazione che caratterizza la sua lettera. Gli italiani onesti dovrebbero essere fieri di aiutare il proprio paese e quindi se stessi e le proprie famiglie. Mi permetta un paio di appunti. Il primo, l'evasione fiscale non va mai considerata come un dato di fatto, ma come una malattia che va combattuta sia con i controlli e gli accertamenti, sia con una vera e reale educazione al senso dello Stato. Il secondo, sul caso Alitalia. Quanto sta avvenendo con il passaggio dalla vecchia compagnia a una società privata dovrebbe andare proprio nella direzione di evitare che vengano richiesti ulteriori contributi pubblici per il risanamento, contributi che si sono accumulati nel corso degli anni proprio per la gestione politico-sindacale della compagnia di bandiera negli ultimi decenni. L'Alitalia, nel suo nuovo assetto, dovrà, dal 1 dicembre, camminare con le proprie gambe. Neppure un euro dovrà essere versato dallo Stato per l'operatività quotidiana. Quindi, con l'avvio della nuova società, si dovrà chiudere un rubinetto di spesa pubblica. Una cosa che avrebbe dovuto essere fatta almeno 20 anni fa. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.